Non sono certissimo che Clinton, come scrivevano ieri i nostri giornali, abbia dato ragione al 100% al governo italiano. Nella polemica che ho posto al ministro Andreatta, quello che sosteneva che la E68 che ha tranciato i cavi della funivia del Cermis fosse fuori lotta e fuori quota, e il generale Guy van der Linden, comandante dei Marines, per il quale lotta e quota erano quelle previste. A me sembra che il presidente degli Stati Uniti si sia limitato a un paio di frasi gentili e non troppo impegnative. Ma che al generale van der Linden in sé parata sede qualcuno abbia fatto un cazziatone tremendo, imponendogli per il futuro di usare la bocca solo per respirare e possibilmente neanche per quello, questo mi sembra altamente probabile. Non tanto perché, come ottimisticamente scritto qualcuno, costui abbia messo in discussione la parola del ministro di un paese alleato importante, perché sull'importanza dell'Italia le autorità americane avranno avuto modo di farsi la giusta opinione negli ultimi 50 anni, ma di un generale così incapace di gestire un momento di crisi, penso non sappia che farsene neanche l'esercito americano. Il bello che in definitiva le differenze tra i due erano solo questione di sfumature. La polemica riguardava il grado e le forme di responsabilità del pilota e dell'equipaggio di quell'aereo, ma che la responsabilità fosse loro e soltanto loro, nessuno si era sognato di mettere in discussione. Di fronte ad eventi di questo tipo, quando un aereo fa una strage, un treno esce dai binari, un veicolo falcia la folla, la colpa è sempre del conducente. L'ipotesi che le autorità si affrettano sempre a mettere in campo è solo quella dell'errore umano. Ora, non ci vuol molto a capire che in sé il concetto di errore umano non spiega niente. Una volta esclusa la deliberata volontà di nuocere, è ovvio che qualsiasi catastrofe è frutto dell'errore e che quell'errore è umano. Non esistono errori di altro tipo. A volte con un po' di buona volontà si potrà invocare la fatalità, ma anche l'idea della fatalità di una serie di fattori naturali che soverchiano la volontà dei singoli, quelli che una volta in inglese si chiamavano con un bizzarro termine gli acts of God, gli atti di Dio, non esclude l'errore di chi, pur avendone i mezzi, non ha saputo prevederli e neutralizzarli. E errare umano, ma non per questo qualcuno è esentato dal dovere di individuare in ogni singolo caso chi abbia errato e perché. Però sappiamo tutti che normalmente del concetto di errore umano non ci si serve per inchiodare qualcuno alle sue responsabilità, ma per esimerne qualcun altro. Per antica tradizione, gli errori dei macchinisti dei treni deragliati, che in genere non possono protestare perché hanno avuto la buona grazia di lasciarci la pelle, servono a negare quelli di chi ha tracciato la linea, di chi ha progettato il locomotore, di chi ha lasciato che la rete andasse in sfacelo. L'errore di quel pilota di jet che per sua fortuna danni non ne ha subiti, ma sarà presto risucchiato in un sistema in cui la nostra giustizia, per quel che vale, non ha speranza di far breccia, e il suo errore copre la responsabilità di chi ha concepito, promosso e organizzato quel tipo di esercitazioni aeree, e per non dire di quello di chi ha ceduto agli americani non soltanto le basi, ma persino la giurisdizione per indagare. Andreatta, che dicono uomo di una certa furbizia, se ne è accorto subito, e non per niente si è lasciato andare in Parlamento a un attacco contro dei cittadini americani, una cosa che sulla bocca di un politico italiano nessuno ricordava di aver mai sentito. Il generale van der Linden, sia il suo un caso di ottusità militare o di militare tracotanza, non si è reso conto che ai fini della sua stessa causa un pilota che in folle competizione di abilità con se stesso, come hanno scritto, abbandonava la lotta prefissatogli per scegliere un percorso più pericoloso era molto molto più utile di un pilota ligio agli ordini ricevuti, perché in quel caso ad aver sbagliato a non essersi preoccupato delle conseguenze sarebbe stato naturalmente lui che aveva dato quegli ordini. Adesso che qualcuno finalmente gliel'ha spiegato, siamo tutti contenti. Forse c'è qualche possibilità che, messo al sicuro il pilota nel Texas o nel Nebraska, fatte sparire le opportune documentazioni, le autorità ammettano che è vero, costui ha commesso un errore. Forse ci chiederanno persino scusa. E degli errori che hanno commesso loro, e di quelli soprattutto che commettiamo noi continuando ad accettare una situazione del genere, non aspettiamoci che si faccia parola. And you tell me where my country lies, said the uniform to his tr-